Ciao a tutti ragazzi, sono Mosca, LM374, non mi conoscerete, sti cazzi. Comunque, fatemi un favore, scaricate Sotterranei Street Album di Pixe, perché è veramente una bomba. Chi non lo scarica, mi codo la mamma, avvisati, me la codo a pressione.